The president can always make a change. Il presidente può sempre cambiare idea. Così la portavoce della Casa Bianca, Dana Perino, accoglie le domande dei giornalisti che le chiedono come l'America accoglie la fiaccola olimpica sul suo territorio. L'accoglie in modo ambivalente. Da un lato la Casa Bianca, che pur confermando la presenza del presidente George W. Bush alla cerimonia inaugurale dei giochi, afferma che la decisione può sempre essere cambiata. Dall'altro il sindaco di San Francisco, che accoglie la fiaccola olimpica come un capo di Stato e dice che la proteggerà in ogni modo, sperando che non si ripetano gli incidenti di Londra e di Parigi. La fiaccola, dice Jim Newsom, deve essere un elemento che unisce, un simbolo di pace nel mondo. C'è gente che strumentalizza questo simbolo. Nello stesso tempo San Francisco ha accolto con uno spiegamento di forze senza precedenti l'arrivo all'alba della fiaccola all'aeroporto. Almeno 500 poliziotti e neanche un manifestante. Sono previste decine di manifestazioni, si spera che non avvengano incidenti. Luciano Clerico, GR24, Il Sole 24 Ore, Washington.